ad alta voce. Daria De Florian legge Il diario di Anna Frank. Martedì 17 novembre 1942. Cara Kitty, è arrivato Dussel. È andato tutto bene. Alle 11 di mattina Miep gli aveva detto di trovarsi in un certo punto davanti alla posta, che un signore sarebbe andato a prenderlo. Dussel si trovava nel luogo stabilito puntualissimo. Il signor Kleiman è andato da lui a dirgli che quel signore non poteva ancora venire e gli ha proposto di recarsi in ufficio da Miep. Kleiman ha preso il tram ed è tornato in ufficio e Dussel si è fatto la strada a piedi. Alle 11:20 Dussel bussava alla porta dell'ufficio. Miep gli ha fatto sfilare il cappotto in modo che non si vedesse la stella e l'ha portato nell'ufficio privato dove Kleiman si è occupato di lui fino a quando la donna delle pulizie è andata via. Usando come pretesto il fatto che l'ufficio privato non era più libero, è salita al piano di sopra con Dussel, ha aperto la porta scaffale ed è entrata facendo strada a quell'uomo esterefatto. Noi sette eravamo al piano di sopra ad aspettare il nostro nuovo compagno attorno al tavolo con cognac e caffè. Miep lo ha portato prima nel nostro salotto. Lui ha riconosciuto i nostri mobili, ma non aveva la più pallida idea che noi fossimo sopra la sua testa. Quando Miep gliel'ha detto, stava per svenire dalla sorpresa, ma per fortuna lei non gli ha dato molto tempo e l'ha portato su. Dussel si è lasciato cadere su una sedia ed è rimasto a guardarci incredulo per qualche tempo, come se volesse leggerci in faccia la verità prima di parlare. Poi ha balbettato: Ma allora non siete andati in Belgio? I soldati non sono venuti? L'auto? La fuga non è riuscita? Noi gli abbiamo spiegato tutto, che avevamo messo in giro apposta la storiella dei soldati e dell'auto per confondere la gente e i tedeschi che eventualmente ci avessero cercati. Dussel è rimasto senza parole davanti a tanta furbizia e non ha saputo fare altro che guardarsi intorno sorpreso, osservando il nostro bell'alloggio segreto. Abbiamo mangiato insieme. Lui ha riposato un pochino e poi ha preso il tè con noi. Ha sistemato le sue poche cose che Miep aveva già portato prima e ha cominciato a sentirsi abbastanza a suo agio, soprattutto quando si è trovato in mano il seguente regolamento dell'alloggio segreto. Guida e regolamento dell'alloggio segreto. Pensione speciale per il soggiorno temporaneo di ebrei e consimili, aperto tutto l'anno. Simpatica, tranquilla zona alberata nel cuore di Amsterdam, senza vicini di casa. Raggiungibile con le linee tramvarie 13 e 17, oppure con l'automobile o in bicicletta. In casi particolari, qualora le autorità tedesche non concedessero l'uso dei mezzi suddetti, anche a piedi. Appartamenti e camere ammobiliati e non, sempre disponibili con o senza pensione. Affitto. Gratis. Cucina, priva di grassi. Acqua corrente in bagno, purtroppo senza vasca, e diversi rubinetti interni ed esterni. Ottimi scaldacqua. Magazzini spaziosi per merci di qualsiasi tipo. Due grandi armadi metallici moderni. Posto di ascolto radio privato. Collegamento diretto con Londra, New York, Tel Aviv e con molte altre emittenti. L'apparecchio è a disposizione di tutti gli ospiti a partire dalle ore 6 della sera. Nessuna emittente proibita. Resta inteso però che solo in casi eccezionali verranno ascoltate stazioni tedesche, per esempio quando trasmettono musica classica e simili. È severamente proibito ascoltare e divulgare notiziari in tedesco, a prescindere dalla fonte di emissione. Ore di riposo. dalle 10 di sera alle 7:30 di mattino, domenica fino alle 10:15. In circostanze particolari saranno imposte ore di silenzio anche durante il giorno, a discrezione della direzione. Le ore di riposo dovranno essere rispettate scrupolosamente per la sicurezza di tutti. Tempo libero. Sospese fino a nuovo ordine le attività fuori casa. Uso della lingua. A tutte le ore si prega di parlare a voce bassa. Sono ammesse tutte le lingue civili, quindi non il tedesco. Letture e passatempi. Non è permessa la lettura di libri tedeschi, eccetto i testi scientifici e classici. Per il resto la scelta è libera. Ginnastica. Ogni giorno. Canto. Esclusivamente a bassa voce e dopo le 6 di sera. Film. A scelta della comunità. Lezioni. Una lezione scritta di stenografia alla settimana, inglese, francese, matematica e storia in qualsiasi momento, baratto con altre lezioni, per esempio di olandese. Reparto speciale per piccoli animali domestici, trattamento ottimo, eccetto i parassiti, per cui è richiesto permesso speciale. Distribuzione dei pasti, prima colazione. Tutti i giorni, eccetto le domeniche e i festivi, alle 9 di mattina, le domeniche e i giorni festivi verso le 11:30. Pranzo, solo a volte, dalle 13:15 alle 13:45. Cena, fredda e o calda, a seconda dei notiziari, senza orario fisso. Obblighi nei confronti del comitato di approvvigionamento, disponibilità ad aiutare nei lavori d'ufficio. Bagni. Domenica dalle 9 in poi la tinozza è a disposizione di tutti gli inquilini. Il bagno può essere fatto nel gabinetto, in cucina, nell'ufficio privato o in quello che dà sulla strada a scelta dell'interessato. Bevande alcoliche, solo su prescrizione medica. Fine. Tua Anne. Giovedì 19 novembre 1942. Cara Kitty, come avevamo immaginato, Dussel è una persona molto gradevole. Ovviamente è d'accordo di dividere la stanza con me. A dire il vero non sono proprio entusiasta che un estraneo usi le mie cose, ma bisogna aiutare gli altri e allora faccio volentieri questo piccolo sacrificio. Se solo riusciamo a salvare qualcuno dei nostri amici, tutto il resto non ha importanza, dice papà, e ha perfettamente ragione. Il primo giorno che era qui, Dussel mi ha fatto un sacco di domande, per esempio quando viene la donna delle pulizie, come sono gli orari per il bagno, quando si può usare il gabinetto. Tu riderai, ma tutte queste cose in un nascondiglio non sono tanto facili. Di giorno non possiamo fare tanto rumore da essere sentiti di sotto e quando c'è una persona estranea, come la donna delle pulizie, tutti dobbiamo prestare particolare attenzione. Ho spiegato tutto per benino, Dussel, ma mi sono stupita di un fatto, e cioè che stenti tanto a capire. Chiede tutto due volte e non si ricorda niente. Forse passerà ed è così confuso solo adesso. Per il resto va tutto bene. Dussel ci ha raccontato molte cose del mondo fuori, da cui ormai manchiamo da tanto tempo. Sa cose molto tristi. Innumerevoli amici e conoscenti sono andati verso un destino terribile. Le automobili militari verdi o grigie vanno avanti e indietro, di continuo. Suonano a tutte le porte e chiedono se ci sono ebrei. Se sì, si portano via tutta la famiglia. Se no, vanno via. Nessuno può sottrarsi a quel destino se non si nasconde. Spesso vanno anche in giro con delle liste e suonano solo dove sanno di trovare un ricco bottino. Spesso si paga una cifra, tanto a testa. È come la caccia agli schiavi che si faceva un tempo, però non è affatto uno scherzo. È troppo triste. Di sera al buio, di frequente, vedo camminare quelle file di buona gente innocente, con bambini che piangono, sempre a piedi, comandati da un paio di quei ceffi, picchiati e torturati fino a crollare per terra. Non si salva nessuno, vecchi, bambini, neonati, donne incinte, malati, tutti, tutti camminano insieme verso la morte. Come stiamo bene noi qui, belli tranquilli. Non dovremmo neanche curarci di tutta questa miseria se non fossimo tanto preoccupati per tutti quelli che ci sono cari e che non possiamo più aiutare. Mi sento male a pensare che, mentre io dormo in un letto caldo, le mie più care amiche sono state buttate per terra o sono crollate da qualche parte. Io stessa ho paura se penso a tutti quelli cui mi sentivo così intimamente legata e che adesso sono in mano ai più crudeli carnefici mai esistiti. E tutto solo perché sono ebrei. Tua Anne. Novembre 1942. Cara Kitty, nessuno di noi sa come comportarsi. Finora non c'erano arrivate tante notizie sugli ebrei e avevamo ritenuto opportuno stare il più allegri possibile. Ogni volta che a Miep sfuggiva qualcosa sul terribile destino di un conoscente, mamma o la signora Van Dan si mettevano a piangere, così Miep ha smesso di parlarne. Ma Dussel è stato letteralmente sommerso di domande e i fatti di cui ci ha parlato sono così orribili che non possono entrare da un orecchio e uscire dall'altro. Quando sarà passato un po' di tempo, però, riprenderemo a scherzare e a prenderci in giro. Non serve né a noi né a quelli che sono fuori se restiamo tristi come siamo adesso. E che senso ha che l'alloggio segreto sia un alloggio triste? A ogni cosa che faccio mi tornano in mente gli altri che non ci sono. E se per qualche motivo mi viene da ridere, smetto subito e penso tra me che dovrei vergognarmi per essere così allegra. Ma che cosa devo fare? Piangere tutto il giorno? No, non posso. Questa malinconia passerà. A tante tristezze se n'è aggiunta un'altra, ma è di natura personale. E si riduce in niente di fronte alle miserie di cui sopra, però non riesco a fare a meno di raccontarti che negli ultimi tempi mi sento terribilmente abbandonata. Attorno a me c'è un vuoto enorme. Prima non ci badavo mai e pensavo solo a divertimenti e alle amiche. Adesso penso o a cose tristi o a me stessa. E alla fine sono giunta alla conclusione che papà, per quanto sia caro, non riesce a riempire tutto il mio piccolo mondo. Mamma e Margot già da tempo non abitano più nel mio cuore. Ma perché tediarti con tutte queste storie? Sono terribilmente ingrata, Kitty. Lo so bene, ma a volte mi gira proprio la testa quando me ne capitano troppe e per giunta devo anche pensare a tutte le altre disgrazie. Tua Anne. Sabato 28 novembre 1942. Cara Kitty, abbiamo consumato troppa luce e superato la nostra razione di elettricità. Conseguenza, risparmi esagerati e forse la sospensione. 14 giorni senza luce, carino. Ma chissà, magari le cose si aggiustano. Dopo le 4, 4 e mezzo è troppo buio per leggere. Facciamo passare il tempo nei modi più assurdi, indovinelli, ginnastica al buio, conversazioni in inglese o in francese, critiche di libri, ma a lungo andare ci si annoia. Ieri sera ho scoperto un nuovo passatempo, e cioè guardo con un potente binocolo nelle finestre illuminate dei vicini. Di giorno non possiamo scostare le tende di un solo centimetro, ma quando è comunque buio non c'è niente di male. Prima non immaginavo che i vicini potessero essere persone così interessanti, almeno i nostri. Un paio li ho osservati durante la cena. Una famiglia guardava filmini e il dentista di fronte curava una donna anziana e ansiosa. Il signor Dussel, di cui si diceva sempre che sapesse stare così bene coi bambini e che volesse bene a tutti i bambini, si è rivelato l'educatore più antiquato del mondo. Fa prediche lunghissime per educare alle buone maniere. Dato che ho la rara fortuna, di condividere la mia stanza, ahimè molto piccola, con questo nobile ed educatissimo signore, e visto che in genere vengo considerata la peggio educata dei tre giovani, ho il mio da fare per sfuggire a vecchi predicozzi e agli ammonimenti ripetuti fino alla noia facendo l'indiana. E non sarebbe nemmeno così grave se il signore non fosse tanto spione e non si fosse scelto la mamma come destinataria delle sue soffiate. Quando mi sono già presa una tempesta di rimprovere da lui, la mamma pensa bene di rincarare la dose e mi investe con un'altra ventata. Se poi mi va proprio bene, allora la signora mi chiama a rapporto 5 minuti dopo e il putiferio mi precipita addosso anche dall'alto. Non credere che sia facile essere il centro di riferimento delle critiche in una famiglia di rifugiati impiccioni. Di sera a letto, quando medito sui molti peccati che ho commesso e su quelli che mi vengono appioppati gratuitamente, l'enorme quantità di cose di cui devo tener conto mi confonde e scoppio a ridere o a piangere a seconda dell'umore del momento e mi addormento con lo strano desiderio di essere diversa da quella che sono e forse diversa da quella che voglio o magari di comportarmi in modo diverso da come voglio o faccio. Oh cielo! Adesso confondo anche te. Scusami, ma odio le cancellature e sprecare la carta in questi tempi di grande scarsità cartacea è proibito. Allora posso soltanto consigliarti di non rileggere la frase soprastante, perché tanto non la capiresti. Tua Anne. Giovedì 10 dicembre 1942. Cara Kitty, il signor Van Dan faceva il commerciante di salumi, carni e spezie. Era entrato nella ditta perché si intendeva di spezie, ma adesso si occupa soprattutto di salumi, cosa che per noi non è affatto sgradevole. Avevamo ordinato molta carne, clandestina ovviamente, per conservarla nell'eventualità che vengano tempi duri. Lui ha voluto preparare salcicce, salamini della Geldria e patè di carne. È stato carino vedere passare nel tritacarne i pezzi 2 o 3 volte, poi tutti gli ingredienti necessari sono stati amalgamati con la carne e con un imbuto infilati nel budello. Le salcicce ce le siamo pappate tutte per pranzo con i crauti acidi, ma i salamini che vanno conservati dovevano prima stagionare ben bene, perciò sono stati legati a un bastone appeso in soffitta con 2 cordicelle. Tutti quelli che vedono l'esposizione di salamini scoppiano a ridere. Infatti è davvero buffo. Domenica 13 dicembre 1942. Cara Kitty, me ne sto qui nell'ufficio che dà sulla strada a guardare fuori attraverso uno spiraglio delle pesanti tende. È quasi buio, ma ci vedo ancora in modo da poterti scrivere. È molto strano vedere camminare la gente. Sembra che tutti abbiano una fretta tremenda e debbano inciampare sui propri piedi. I ciclisti poi sono velocissimi. Non vedo neanche che tipo di individuo ci sia su quei velocipedi. La gente di questa zona non ha un aspetto molto invitante e soprattutto i bambini sono così sporchi che non li toccherei nemmeno con le pinze. Veri bambini dei sobborghi, col moccio al naso, parlano un dialetto che capisco a fatica. Ieri sera Margot e io stavamo facendoci il bagno quando le ho detto: «Che cosa ne diresti se pescassimo con l'amo i bambini che passano qui davanti uno per uno, li ficcassimo nella tinozza, li lavassimo e li mettessimo a posto e poi li lasciassimo andare?» E Margot: «Domani sarebbero di nuovo sporchi e malconci come prima». Ma cosa sto qui a criticare? Ci sono anche altre cose da vedere: automobili, barche e pioggia. Sento il tram e i bambini e mi diverto. I pensieri, proprio come noi, non cambiano molto. Girano sempre come una giostra, dagli ebrei al mangiare e dal mangiare alla politica. Tra parentesi, A proposito di ebrei, ieri da dietro la tenda ho visto due ebrei, come se fosse chissà cosa. È stata una sensazione così strana, come se li avessi traditi, e ora me ne stessi qui a spiare di nascosto la loro sventura. Qui di fronte c'è una casa galleggiante in cui abitano un capitano, sua moglie e i figli. Quest'uomo ha un cagnolino. Lo conosciamo solo per averlo sentito abbaiare e si vede la coda quando corre sul ponte. Si è messo a piovere e quasi tutti si sono nascosti sotto gli ombrelli. Non vedo altro che impermeabili e a volte una testa coperta da un berretto. In verità non c'è neppure bisogno di vedere altro. Piano piano, là fuori, comincio a riconoscere le donne gonfie di patate, con cappotti rossi o verdi, tacchi consunti, borsa sul braccio, faccia scorbutica o bonaria, a seconda dell'umore del marito. Tua Anne. Martedì 22 dicembre 1942. Cara Kitty, qui all'alloggio segreto la notizia che ognuno per Natale avrà 125 grammi di burro in più è stata accolta con gioia. Sul giornale c'è scritto addirittura un quarto di chilo, ma riguarda solo i fortunati mortali che ricevono le tessere dallo Stato e non gli ebrei nascosti che al mercato nero possono comprarsene solo 4 al posto di 8. Useremo tutto il burro per confezionare dolci. Stamattina ho preparato biscotti e 2 torte. Quassù c'è un grande affare e mamma mi ha proibito di studiare e di leggere prima di aver finito tutti i lavori di casa. Ah, come divento saggia! Qui tutto deve avvenire in modo logico. Studiare, ascoltare, tacere, aiutare, essere bravi, cedere e quant'altro ancora. Temo che la mia saggezza, che già non è particolarmente abbondante, possa consumarsi troppo in fretta ed esaurirsi prima della fine della guerra. Tua Anne. Mercoledì 13 gennaio 1943. Cara Kitty, questa mattina sono stata di nuovo disturbata da diverse cose e quindi non sono riuscita a concludere niente. Abbiamo una nuova occupazione, e cioè riempire sacchetti di sugo d'arrosto in polvere. Questo sugo è prodotto dalla Giese & Co. Il signor Kugler non riesce a trovare nessuno che gli faccia questo lavoro e se lo facciamo noi costa anche molto meno. È uno di quei lavori che anche i carcerati vengono costretti a svolgere. È stranamente noioso e ti fa girare la testa e ridere. Fuori è tremendo. Giorno e notte quella povera gente viene portata via con uno zaino soltanto e un po' di denaro che comunque gli vengono poi rubati durante il tragitto. Le famiglie sono divise, uomini, donne e bambini vengono separati. Ci sono bambini che tornando da scuola non trovano più i genitori, donne che fanno la spesa e quando tornano trovano la casa sigillata e la famiglia scomparsa. Anche i cristiani olandesi cominciano ad avere paura. I loro figli vengono mandati in Germania. Tutti hanno paura. Ogni notte, sopra i Paesi Bassi, passano centinaia di aerei che raggiungono le città tedesche e rivoltano la terra con le loro bombe. E ogni ora in Russia e in Africa cadono centinaia, addirittura migliaia di persone. Nessuno riesce a tenersi fuori. Tutta la terra è in guerra e anche se gli alleati se la cavano già meglio, non si vede ancora una fine. E noi stiamo bene, sì, meglio di milioni di altre persone. Siamo qui al sicuro, tranquilli e per così dire ci mangiamo i nostri soldi. Siamo così egoisti che parliamo di un dopoguerra. Desideriamo vestiti e scarpe nuovi, mentre in realtà dovremmo risparmiare fino all'ultimo centesimo, così dopo la guerra potremo aiutare gli altri e salvare il salvabile. I bambini escono in maglietta, con gli zoccoli ai piedi, senza cappotto, senza berretto, senza calze, nessuno che li aiuti. Non hanno niente in pancia, ma masticano una rapa. Lasciano la casa fredda per uscire sulla strada fredda e arrivare in una classe ancora più fredda. Sì, Anche in Olanda siamo ormai a questo punto, che per strada tanti bambini fermano i passanti e chiedono un pezzo di pane. Potrei parlare per ore di seguito delle miserie che la guerra porta con sé, ma mi renderei ancora più triste. Non ci resta che aspettare la fine di questo supplizio più tranquilli che possiamo. Tanto gli ebrei quanto i cristiani aspettano. Tutta la terra aspetta. E molti aspettano la morte. Tua Anne. Daria De Florian ha letto Il diario di Anna Frank, edizione definitiva a cura di Miriam Pressler, traduzione di Laura Pignatti, a cura di Anna Antonelli, Fabiana Carobolante, Lorenzo Pavolini e Chiara Valerio. Per scaricare e riascoltare il programma radio3.rai.it.